Perché chi mente la prima volta, poi a letto dopo deve mentire per sempre. Bisogna avere il coraggio di consegnare la propria immaginazione erotica all'altro, quando non si è ancora una coppia, quando non ci si vergogna. Tutta questa corsa all'adulterio non è tanto, come si dice, per fame di novità. Spesso è perché si cerca un confidente dei gusti. Senza questo non c'è erotismo, ma c'è solo recita, performance e noia e rancore che prima o poi esplode. E se non esplode uccide, come sempre la menzogna. Tanto poi magari finisce lo stesso. Ecco, allora la preghiera che faccio sempre, ma non si dice mai abbastanza, tanto è di non prendervela coi figli. Si dice sempre, quello lì è fatto come Medea. No, Medea si limita a ucciderli, molti fanno proprio come Tieste, se li mangiano i figli. E poi le frasi proibite. Ci sono delle frasi proibite che non bisogna dire. Ti amo come il primo giorno. Bugia! Non è vero, l'amore è un divenire. L'amore, se c'è, non può che crescere. E non può che cambiare mille volte forma. L'amore è metamorfosi. Un'altra frase proibita. Ho tanti sensi di colpa verso mio marito, oppure verso mia moglie. Beh, comportati bene, che ti passano. Un'altra. Questa casa non è un albergo. No, e allora che? Una galera? No, perché non c'è via di mezzo, eh? Non c'è focolare dove non c'è libertà. Oppure, dove vai? No, dove vai? La frase in sé non è proibita. È proibito quel certo tono dietro il quale si sente scattare un clac di manette. Un'altra frase proibita, ma è la base. A cosa stai pensando? No, ecco, questa veramente è proibitissima. È proibitissima perché se l'altro non te lo dice, ecco, taci. Forse un giorno te lo dirà. Ma non puoi pretendere di avere l'appalto di tutti i suoi sogni. E poi l'ultimissima, se finisce, ecco, di non volere annientare l'altro, di non fare terra bruciata, di non dire chi lasciate, mi facevi schifo a letto, a tavola, di non dirgli che è un idiota, tutti e due, questo vale al maschile, al femminile, al trans, vale per ogni sesso, perché è un grande delitto sciupare quello che c'è stato, perché se non lo sciupate è un patrimonio che vi accompagnerà sempre. La guardiana del faro. Voglio parlare di Filippo Martinez, che è nato a Oristano il 20 luglio del 1951 ed è morto a Oristano il 20 luglio del 2001. Il fatto è che lui si era offeso a morte quando ha compiuto 50 anni. Cioè, il passaggio del tempo gli è sembrato proprio un oltraggio personale. Compiere 50 anni poteva succedere a chi aveva sgomitato per la carriera, a chi aveva venduto il suo talento, a un uomo d'ordine, ma no a un anarchico come lui, che aveva sempre perseguito soltanto l'arte e il suo pensiero. Non a lui, che aveva scritto un racconto intitolato I cammellini della memoria, ed è un racconto bellissimo in cui l'inizio della morte è la mancanza della memoria, quindi facendo la doccia questo protagonista si accorge che di questi cammellini piccoli che poco a poco stanno portando via i ricordi attraverso le orecchie. E quindi il giorno del compleanno si è dichiarato morto. Ha dato un addio al mondo della serietà e si è sdegnosamente ritirato nell'unica cosa seria che riconosca e nella quale si è sempre vissuto, il gioco. Quindi adesso Filippo Martinez è un trapassato. E adesso che è morto, chi lo ferma più? Lui è nato a Oristano, in Sardegna, l'anticosta smeralda, quella non colonizzata dai ricchi, immune dall'ultracafona, come lo chiama Roberto D'Agostino. Oristano è il contrario del billionaire, somiglia molto di più a Macondo, anche perché grazie a Martinez le passioni sono molto vive. Mi ricordo quando organizzò il primo raduno mondiale degli Zorro e vennero da tutto il mondo. In piazza c'erano 1000 Zorro con la mascherina, il cappello e la spada, e anche il suo cane Ciccio aveva il cappello, il mantello e la zeta e la mascherina. Martinez è pittore, regista, scrittore, troppo. E il grave è che lo fa maledettamente bene. In ogni cosa riesce molto bene. Basterebbe una parola per definirlo: poeta. Poeta come lo intendeva Blesse Andrà quando dice: ed ero già così cattivo poeta che non sapevo andare fino in fondo. Ecco, Martinez va fino in fondo. Lui una cosa ce l'ha chiara in testa: che nessuno deve disturbare la sua libera infanzia. Martinez è un Don Chisciotte con un piede nella realtà, quella che occorre all'arte perché non resti soltanto un'intenzione. L'ultima iniziativa di Martinez, attiva in questi mesi, è un corso per la prevenzione dell'idiozia, ogni venerdì a Oristano. Per 4 mesi, per esempio, sempre Giulio Giorello, che è sempre tra i primi a correre con entusiasmo, Claudio Ciaravolo, Fabio Canessa, Pietro Buttafuoco. Se la parola rivoluzionari non fosse così inflazionata e sminuita, mi potrei azzardare a chiamarcelo. Se dovessi fargli un epitafio, sarebbe un altro, tra quelli i tanti che si è fatto lui, sarebbe la canzone di Paolo Conte, quella che dice: ah, che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Che romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei. Amata mia, chiederei a questo punto alla Capitaneria di Porto di chiamarmi Filippo Martinez. Qualcuno ti ama e sa descriversi. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, Filippo Martinez è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Martinez? Ciao, Barbara. Carissimo, dove sei? Sono in treno in questo momento e sto viaggiando da Roma a Milano. Quindi da un momento all'altro saremo interrotti perché è pieno di gallerie. È facile, quindi è approfittiamo. Facile. Ecco, io prima di farti chiamare ho parlato di questa tua nuova iniziativa dello spettacolo sull'idiozia. Del corso per la prevenzione dell'idiozia, del quale tu sei una delle 19 docenti. Ma chi siamo? Chi sono questi idioti? Vedi che bell'apso. Chi siamo? Beh, infatti. Chi siamo? Hai detto bene. Quando finisce l'idiozia? L'idiozia finirà a questo punto il 22 aprile. Ci sono Fausto Taitenguareschi e Francesco Abate, lo scrittore, il 18 marzo. Poi ci sarà lo Sgarbi il 25 marzo. Poi il 1 aprile ci saranno Pietrangelo Buttafuoco e Francesco Merlo. Poi l'8 aprile ci sarò io, poi Massimo Fini il 15 aprile e chiuderanno alla grande Nino Nonnis e Claudio Ciaravolo il 22 aprile. Ah, loro chiudono, quindi si chiude proprio in farsa, fantastico. Senti, ma mi fai un esempio della tua idiozia? Beh, non ho... La modestia ti impedisce di parlarne, no? Diciamo così, non voglio vantarmi di idiozie millantate, che poi, però ho una buona quota, una buona congrua quota che mi aiuta a vivere meglio, credo. Senti Filippo, dimmi come vivi da quando sei morto. Beh, devo dire che da quando sono postumo vivo bene. Allo scoccare del mio 50° compleanno ho deciso di fissare la data del mio decesso in didascalico, perché poi il mio decesso didascalico, quello banale che attiene ai vermi e alle pompe funebri, non sarò io a determinarlo. Però il mio decesso in didascalico è stato il 20 luglio del 2001, esattamente, quando ho compiuto 50 anni. Questa data, sancita da una festa nel grande bel giardino dei miei genitori, a questa festa hanno partecipato amici di tutti i tempi, da quando ero all'asilo infantile. C'era un'orchestrina Dixieland e si è celebrato la mia dipartita, anche se io non l'avevo annunciata per non creare equivoci. Da quel momento ho, come si dice, segato tutto ciò che mi faceva perdere tempo e che non mi piaceva. Per cui, per esempio, tutti noi ci trasciniamo amicizie che sono state meravigliose in un certo periodo della nostra vita, ma che poi col tempo si sono cristallizzate in certi schemi, per cui ci si continua a vedere con certe persone nel ricordo di una... Di ciò che non è più. Sì, che non è più. Questo non vuol dire che queste persone sono diventate nemiche oppure che sono diventate antipatiche, semplicemente che una frequentazione coatta può rovinare quel momento pregresso che è stato così bello. E ho cercato di fare con tutte le forze, con tutta la concentrazione, quello che mi piaceva, quello che sentivo da sempre di voler fare. Come per esempio il raduno mondiale degli Zorro Oristano? Sì, che però avevo già fatto quando ancora non ero postumo. Quelle sono cose abbastanza, come dire, facili da realizzare. Quello che è più impegnativo è sparire per qualche anno in un gigantesco capannone abbandonato e trascorrere dall'alba al tramonto tutte le giornate, domeniche comprese, a dipingere quasi giganteschi. Ecco, questo, se non sei virtualmente di partito, ci viene difficile da collocare nell'economia delle giornate standard. Quindi qualche anno l'ho passato così. E poi tanti altri lussi che sono riuscito fino adesso a concedermi. È una libertà privata quella che ti concedi quando stabilisci la tua dipartita virtuale. È una libertà forse più nei rapporti con le persone. Frequenti meno persone ma con più affetto, perché non hai disperso le energie nel così commercio quotidiano con troppi esseri umani. Con questo non voglio dire che sono diventato un orso, voglio dire che ho evitato tutte le occasioni di dispersione di energia, ecco, le sto evitando perlomeno. Il tutto, per la verità, non porta alla felicità, almeno non nel mio caso, però alla saltuaria incidentale benedetta possibilità di felicità che ogni tanto puoi cogliere, ecco. Cioè, è più facile essere felici a 20 anni che non a 60. Se non prendi delle misure drastiche a 60 rischi di non avere più alcuna chance, salvo che non sia una persona fortunatissima, Gastone Paperone, ecco. Beh, comunque poi mi meraviglia che tu ricada nella aritmetica. Come fai a dire che hai 60 anni? Dal momento in cui ti sei dichiarato defunto, questo è il trucco. Il tempo non esiste più. Sei a 50 anni stabile, anzi, mi porto i fiori ogni anno, no? Sono stabile a 50 anni. Se non fossi defunto, adesso avrei 60 anni, pensa tu. Senti, però, dato che tu, per quanto creatura totalmente artistica, però hai delle legami umani, ai due figli, quindi una cosa di questo genere si può fare se c'è un complice in casa. Avrai un complice in casa? Beh, sì, insomma. Tua moglie Marina, che parte ha in questo? Marina sa con chi ha a che fare, per cui è stata quella che si è stupita meno quando, con una tuta mimetica, sono partito per la gigantesca fabbrica di vini abbandonata di Terralba. Non si stupisce. I miei figli poi hanno giovato di un padre che vedevano meno, cosa che guasta, non mi hanno mai visto troppo, ma sempre di buon umore, diciamo, perché rientrando per esempio dal periodo della pittura, che è una cosa meravigliosa che consiglio a tutti coloro che amano la pittura, cioè se amate la pittura fate quadri, ma fateli in dosi esagerate di tempo, perché poi il tempo si contrae ed entri in una dimensione che si dimentica dello spazio e del tempo. All'inizio hai ancora senso del tempo, dopodiché è un trip meraviglioso. Io mi ricordo, mi svegliavo alle 4 del mattino con questa proprio voglia feroce di saltare in macchina, correre a Terralba, che è a 20 minuti da casa mia, indossare la tuta e perdermi nei colori. È stato bellissimo. Lo consiglio a tutti quelli che decidono di morire in didascalicamente a un certo punto della loro vita. Voci dal corso per la prevenzione dell'idiozia. Giulio Giorello, Idiozia e Scienza. Ecco come parla un altro critico della scienza. Carlo di Inghilterra propose di curare alcune forme di cancro non servendosi degli apparati soliti, no? Dei farmaci, eccetera, ma ricorrendo a, testuale, clisteri di fondi di caffè sciolti nell'acqua. La guardiana del faro. Voci dal corso per la prevenzione dell'idiozia. Marco Schintu, Idiozia e Scienza. Da qualche anno è stato istituito il premio Ig Nobel, che sarebbe Ig Nobel. Praticamente viene premiato ogni anno in parecchie discipline quello che è il lavoro più stupido, costruito male. È una cosa seria, perché questi premi vengono assegnati da veri premi Nobel. Però adesso ne cito rapidamente qualcuno. Premio Nobel per la veterinaria del 2010 è un lavoro che in pratica dice che le vacche che hanno un nome danno più latte di quello che non ce l'hanno. quello invece per la medicina legale è stato dato un lavoro che praticamente si chiedeva se fanno più male le bottiglie di birra piene o vuote quando vengono date sulla testa. Però il campione, quello che dal 2003 è indiscutibilmente l'autore che è più successo in questo campo, viene invitato sempre dai comitati scientifici, un ornitologo che si chiama Melliker, che ha pubblicato questo lavoro, il primo caso di necrofilia omosessuale nell'anatra Anas plantiricus. Nel giugno del 1995 un esemplare adulto dell'anatra Anas plantiricus ebbe una collisione con la facciata di vetro del Museo Naturale di Rotterdam e morì. Un'altra anatra, sempre un maschio, ne ha violentato il cadavere quasi continuativamente per 75 minuti. A quel punto l'autore ha disturbato la scena ed ha messo al sicuro l'anatra morta. La dissezione ha mostrato che era anche questo un maschio. Nel lavoro è riportato anche il punto della facciata in cui l'anatra ha sbattuto ed è morta, il punto in cui è stata ritrovata per terra e, come se non bastasse, ci sono le foto del rapporto che hanno avuto queste due anatre. Anche io ho partecipato a questo corso per la prevenzione dell'idiozia e lì per lì mi preparavo a fare un lungo studio. Poi mi sono guardato intorno in casa mia e ho capito che bastavamo noi, che non c'era proprio bisogno di ricorrere ad altri. Quindi ho raccontato delle storie, come per esempio quella dello zio Giulio. Il mio zio Giulio, che negli anni 60 era un uomo che non sapeva dire la S e la pronunciava F, e aveva un lungo fidanzamento con una ragazza. Dopo 15 anni la lascia e quando gli chiedono perché, lui risponde: perché era troppo baffa. Poi lui si sposò con un'altra, ebbero un figlio, che studiava ed era mantenuto dal padre, che ogni sera faceva i conti di quanto gli costava, perché lo zio Giulio era avarissimo. E ogni volta, tirando le somme, lo zio Giulio diceva alla moglie: ma sei sicura che è figlio mio? Perché l'idea di dover spendere per un figlio non gli andava giù, per cui sperava di poter così contare magari su una paternità presunta. Un giorno il figlio viene chiamato per il militare e lui poteva chiedere il rinvio per l'università, ma il padre gli fece un tale lavaggio del cervello e lo convinse che era meglio adesso, così, dice, ti levi il pensiero. Il fatto è che lo zio Giulio, l'avaro, si era entusiasmato all'idea che per 14 mesi, tanto durava allora la leva, glielo mantenesse lo Stato, questo figlio. Il figlio era venuto su come lui. Allora si presenta al padre, fa un conto al centesimo di quanto risparmierà mentre lui fa il militare, glielo presenta e gli chiede di corrispondergli ogni mese quella cifra. Il padre si mette a gridare affaffino, cioè assassino, e sviene. Quando rinviene, però, dice: però almeno adesso sono sicuro che fai mio figlio. Сумерки, природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Una cosa poi che non capirò mai nella mia famiglia, non so nelle altre, sono i discorsi automatici. Come c'è una barzelletta sulla prigione, no? C'è un neocarcerato che entra in questa cella e la sera ci sono così i passatempi soliti e dice: adesso raccontiamo le barzellette. E uno dei suoi compagni dice: uno, e tutti ridono come matti. 15, e tutti ridono come matti. Lui dice: ma scusate, ma dove sono le barzellette? E l'altro risponde: ma sai, ormai le sappiamo talmente a memoria che basta dire il numero. In casa è esattamente così, potremmo parlare a numeri, dato che si fanno sempre gli stessi discorsi, 1, 12, 15, e vuol dire sempre le stesse cose. Perché è incomprensibile per me l'idiozia domestica, per cui si è noiosissimi con quelli con cui si vive sempre e brillantissimi con quelli che non si vedono mai, perché in casa si fanno sempre gli stessi discorsi, ma se poi arriva un ospite, si va a cena fuori, ci sono degli altri, si scopre che il marito così musone, così noioso, il figlio così ripetitivo, sono delle persone brillantissime, sono delle persone squisite. Ecco, questo è uno dei misteri della famiglia, della mia famiglia, ma penso anche di molte altre. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещуте палеты. Poi, durante questo convegno per la prevenzione, io ho fatto un coming out molto doloroso, di quelli che è difficile fare, ovvero come ci si chiama in casa. i nomignoli che ci si chiamano in casa e le lessiosaggini infantili che si usano tra persone con cui c'è molta confidenza. Per esempio mio marito, che è un signore della mia età, molto elegante, professionista, una persona seria. Topo, topone, topicco. Lui a me non mi chiama. Però se per una volta sento dire Barbara, vuol dire che l'ho fatta grossa. Mi ricordo a 16 anni avevo un fidanzatino e per 2 anni ci siamo parlati col naso, chiamandoci gatto e gatta. Pronto, gatta? E lui, sei tu un gatto? Vieni qua? I miei sono usciti. Va bene, ma se tornano, facciamo in tempo a sentirli. Oh, mai una frase normale. E questo perché chiaramente non ce ne fregava niente l'uno dell'altro. Meno c'è amore e più si fanno le smorfie. Poi, quando ero piccola, noi bambini ci crescevano cretini perché ci parlavano con la L fino a 7 anni. Vuoi mangiare? Va a giocare. Adesso no, adesso a 3 anni i ragazzini, se hanno avuto una discreta educazione, sono dei vocabolari viventi. Ma la cosa veramente inconfessabile, il coming out che mi rovinerà, è il linguaggio che usiamo con gli animali domestici. L'idiozia del linguaggio coi cani o coi gatti rimane, per fortuna, nelle mura domestiche. Noi avevamo un grosso pastore nero femmina che si chiamava Stella e dicevamo che ci capiva solo se le parlavamo con la A per 14 anni. Per esempio, va alla zappa? Vuoi la zuppa? Andiamo a spassa? Andiamo a spasso. Dall'ancanta, pascata, saltappata, delinquente, è pisciato sul tappeto. Stalla, ti sei fregata la prascatta. Stella, ti sei fregata il prosciutto? Mia figlia andò a studiare in Egitto. Io le scrivo sempre 2 righe da parte della Stella, rigorosamente con la A. Salata, non dare a campananza gavanatta. Saluti, non dare confidenze ai giovanotti. Poi è arrivata una trovatella di nome Bionda e lei ci capiva con la I. Bindi, vini chi? Vieni qua. Pirchi, mirsichi, tilvicchi. Mi schisi, signiri. Perché hai morsicato la vecchia? Mi schisi, signiri, cioè. Mi scusi, signora. Mi scusi un cavolo. Io la denuncio. Gli mette la musarola questa stronza. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, è colpa mia se io e mio marito siamo felici? Se il nostro bambino è uno schianto? Se con poco ci permettiamo dei lussi che i nostri parenti se li sognano? Siamo accorti nell'amministrare e ci siamo scelti perché ci volevamo veramente bene. Ma mia sorella, mio cognato, i suoi fratelli e le loro mogli pare che ce l'abbiano con noi. Sono sempre malignità e frecciate e se diciamo che siamo felici, felicissimi, fanno dei sorrisetti come chi non ci crede e la sa più lunga di noi. Certo che non ci possono credere, combinati come sono loro, corna incrociate, figli disastrati per le liti che sentono in casa e un disordine generale che è anche sui soldi e stanno sempre a dibattersi perché non ci sanno fare. Io preparo dei pranzi fantastici per le riunioni familiari, ma si trasforma tutto in veleno perché la nostra fortuna non la mandano giù, perché ti perdonerebbero di rubare e di ammazzare, non di aver messo su una bella famiglia senza impicci. Ti scrivo perché tu mi suggerisca cosa rispondere a quei loro sorrisetti. Non siamo mica felici per fare dispetto a loro. Doris. Invece sì, Un po' sì, Anzi, tanto. Voi due siete felici contro gli altri, con la vostra smania di sbatterla in faccia sta felicità. Ma siete di bere un piscatole. Più che felici, siete esibizionisti da tavola. C'è chi ama a farsi guardare a letto e chi nella foto della domenica. Tu cucinerai pure bene, ma io, Doris, a pranzo da te non ci verrei mai, perché tu e tuo marito mandate tutto di traverso con l'ostentazione del quadretto familiare. E al momento della digestione, di sicuro, approfittate dell'intontimento dell'ospite e fioccano i filmini, per farci vedere quanto eravate belli al mare o ai monti, come se non bastasse la presenza. Di essere felici non vi importa, vi importa solo di farlo credere ai vostri parenti. Siete come degli attori senza pubblico, smaniate se la vostra rappresentazione non ha successo. Sì, siete come artisti la cui opera ha senso solo se gli altri la riconoscono. Siete una coppia moderna. Stare insieme non vi basta, volete gli applausi. Come la TV, volete l'invidia, mentre secondo me suscitate solo irritazione. Perché vedi, Doris, la felicità ride, canta, grida, ma non parla. E poi se fosse vera, perché sciuparla? Io mi ricordo, anni fa, la coppia Pivetti-Brambilla, che commise l'errore più dannoso in amore, quello di rappresentarlo davanti a tutti. E mi ricordo con un'ingenuità folgorante affidò a TV e giornali la confidenza delle intimità più segrete. Già i matrimoni sono un guaio, perché rendono pubblica l'unione, esponendola al linciaggio. E quando vedevo la famosa coppia in TV, che si sentiva in dovere di riferire ogni palpito, ogni bacio, ogni sentimento agli italiani, dal viaggio di nozze al dolce segreto, come dicevano loro, pensavo, poveri ragazzi, si sono già lasciati, ma ancora non lo sanno. Quelli che sono andati in TV a gridare il loro amore dagli elicotteri o dai ventesimi piani, si sono lasciati tutti. Perché da innamorati ci si trasforma in attori. L'esibizionismo della felicità diventa una droga senza la quale si è disperati. Voi due non sapete essere felici se non davanti agli altri. Ovvero, non avete idea di cosa sia la felicità. La guardiana del faro. Voci dal corso per la prevenzione dell'idiozia. Fabio Canessa, Idiozia e scuola. C'era una bellissima frase di Ennio Flaiano: tutto quello che non so l'ho imparato a scuola. Fra l'altro aveva fatto le scuole quelle vere, quelle che noi diciamo che erano serie. Però è chiaro che vuol dire la frase. Le cose che noi sappiamo sono quelle che abbiamo studiato per passione. Però tanto più oggi, quando la scuola sembra avere abdicato al suo compito vero, che è appunto insegnare le materie. Basterebbe questo, che non è una cosa difficilissima, è normalissima. Insegnare le materie scolastiche. E se ci crediamo, le materie scolastiche hanno il potere di fare tutto. Hanno il potere di formare uno studente in tutti i sensi. Invece che cosa facciamo? Intanto cominciamo col dire che bisogna studiare. Tutti i ragazzi devono dire, bisogna studiare. Facciamo l'orientamento, cosa che prima non c'era, e che da quando c'è l'orientamento sono molto più disorientati i ragazzi. E io non ho fatto nessun orientamento, dalle medie ho scelto il liceo classico, potevo scegliere un altro, non sapevo neanche cos'era, però uno capisce, poi ci va. Invece ora c'è questa cosa stranissima, i primi giorni di scuola arrivano quelli delle medie, li portano a giro, li fanno vedere, qui c'è il gabinetto, qui c'è la biblioteca. E lo capiranno da soli, uno apre e dice, ah, qui c'è, mi sembra il gabinetto, questo, ci sono i libri, mi sembra la biblioteca. Cioè c'è una sottovalutazione in realtà degli studenti, per cui sembra che vadano accompagnati in ogni momento della loro vita. Tra le idiozie domestiche ce n'è stata un'altra, ne ho già parlato un'altra volta, di quando mio padre tornò da Roma con la scimmia Ghibli. La regolò alla moglie. Allora la giovane coppia di sposi viveva con i genitori di mio padre. Arriva la scimmia e la nonna l'accoglie con molta gentilezza e le fa vedere una banana. La scimmia tende la mano per prenderla e la nonna gliela ritira e se la mangia con aria indisponente davanti alla scimmia. La scimmia non l'ha perdonata più. Da quel giorno non ha avuto pietà. C'era la stufa legna e la sera la nonna ci bolliva sopra il pentolino del latte. La scimmia stava in agguato. Fulminea balzava sopra la stufa e defecava ratta come la polvere aggrappata al tubo con una mano e con l'altra lanciava il prodotto nel latte. Si è vendicata ogni sera nei 2 anni che è stata lì. La nonna chiudeva le finestre, i pertugi, niente. Non si sa da dove sbucasse, ma lei sbucava perché le scimmie hanno i superpoteri. Una scimmia Umberti negli anni 40 non c'era e non c'era la TV né internet. E quindi era il divertimento del paese. La portavano al bar dove la facevano ubriacare, la viziavano e lei diventava sempre più scostumata. Nell'orto confinante c'era la sora Angela che allevava i polli. Un giorno arriva un cappone bianco, maestoso, presuntuoso, il re dei capponi, che era l'orgoglio del pollaio, ma anche l'orgoglio della sora Angela. La Ghibli guarda il cappone, forse le è antipatico. Entra nel giardino, gli salta in groppa e lo cavalca stringendogli il collo. Lui corre, schiamazza, lei intanto correndo lo spiuma e mentre correvano si lasciavano dietro questa nuvola di piume. Non gliene lasciò una. Quando la sora Angela ha trovato il suo cappone nudo, ha fatto il diavolo a quattro. Voleva ammazzare la scimmia, voleva ammazzare i nonni. Allora l'hanno mandata via un po' alla Ghibli per far calmare le acque e anche per salvare la pelle e un po' non ne potevano più. Lei è andata a stare dell'altro nonno, un macellaio molto serio e costumato che amava le bestie. L'ho già raccontata, ma è molto importante nella prevenzione dell'idiozia. Lui stravedeva il nonno per questo gattone certosino di nome Loli e il nonno dormiva con lui invece che con la moglie e lo nutriva a filetto. La Ghibli veniva chiamata al femminile in quanto scimmia, però era un maschio. E aveva un grande problema, collocare in qualche modo il sesso che teneva sempre dritto in mano. finché un giorno saltò sulla schiena di Loli e si approfittò di lui prima che potessero impedirlo. Tutti dissero per salvare la faccia che Loli aveva subito l'affronto perché vecchio e stanco, non certo per vizio. Il nonno scosse la testa e non disse niente. Non c'era niente da dire. I tempi cominciavano a sopraffarlo. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Un anno con lei, poi mi lascia, io mi rodo, la tradisco. Ne ho due insieme, mi confondo. Ma è sempre a lei che penso. Poi torna, fa la contrita, ma non troppo. Dato che studia nella mia città, le fa comodo venire a vivere con me. Dormiamo insieme per 4 mesi, senza che lei mi permetta di toccarla. Dice che i nostri rapporti attraversano una nuova fase, che deve capire lei stessa. Insomma, mi mette alla tortura e io ci sto. Obbligato a una sessualità insana, agli incontri affamati o all'autoerotismo disperato, cercando di capirla. Intanto i mesi passano, lei dà i suoi esami, e io vengo a scoprire che nel frattempo si faceva delle belle scopate con un mio amico. La commedia che ha fatto con me è disgustosa, ma io non sono disgustato. Io la amo lo stesso, e quel che è peggio la desidero. Le faccio il muso, mi faccio pregare, lei vuole tornare. So che mi rovinerà la vita, ma... Caro, ma non vedi l'ora di averla di nuovo con te. L'orgoglio è disgustato, ma l'amore è ancora più acceso. I sensi non chiedono il permesso alla ragione. E la commedia della castità, rivissuta nel pensiero, sapendo che intanto lei andava con un altro, mischia il desiderio e la vendetta, ed è una mistura esplosiva che manda all'aria qualsiasi dignità. Come esistono i Don Giovanni, così esistono i De Grieux. Don Giovanni fa piangere. De Grieux, il De Grieux di Manon, non si stanca mai di piangere. De Grieux è l'amante di Manon Lescaut. De Grieux segue la sua amante in ogni avventura. Cambia anche continente per lei. E non esita per amore a fare una parte tradizionalmente femminile. Ovvero accetta le infedeltà di lei e la segue perfino nella colonia penale. Ma non da uomo arrabbiato, benedicendo la propria sorte, perché ha la fortuna di stare con lei, a qualsiasi costo. E questa è una vocazione che richiede molto impegno e capacità di incanto e una protervia tutta infantile, ma con una forza da eroe. Nel libro e nell'opera lirica, Manon ama e rispetta il suo cavaliere, anche quando si mette in altre storie. La tua Manon mi sembra un po' più squallida, mi sembra molto meno ambiziosa. Ti mena per il naso solo in vista di un alloggio. Ma non importa come lei, importa come la vedi tu, importa il tuo desiderio. Grazie per avermi consultata, ma non servirà a niente. Fai bene ogni tanto a tenere duro, altrimenti lei ti disprezzerà e il gioco finirà subito. È inutile che tu ti ponga il problema se devi perdonarla o no. Il tuo corpo ne ha bisogno, il tuo corpo è al di sopra del perdono. Questa è una poesia di Rodolfo Wilcock, per tutti quelli che devono nascondere un amore. Come senza di te sono tutti pallidi. Sembrano fichi rimasti sotto la pioggia. E come cadono nell'increscioso equivoco di rivolgermi qui gesto e parola. Quando sono con te, di là, di là. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.